La storia e la memoria di Dino Pesole. Il 4 febbraio del 1945 si apre a Yalta, in Crimea, la conferenza dei capi di Stato delle maggiori potenze impegnate nella guerra contro il Terzo Reich. Sono trascorsi 70 anni da quando i leader dei paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale ridisegnano di fatto l'assetto geopolitico europeo. Un evento dalla portata storica, con Roosevelt, Churchill e Stalin seduti allo stesso tavolo per ridefinire nel breve volgere di una settimana, dal 4 all'11 febbraio del 1945, gli equilibri strategici mondiali. A Yalta, in linea con le intese raggiunte 2 anni prima nella conferenza di Teheran, viene sancita la spartizione per aree di influenza tra le grandi potenze, appunto vincitrici della guerra, che di fatto resterà in piedi fino alla dissoluzione dell'impero sovietico. Gli accordi di Yalta stabiliscono l'influenza parziale o totale dell'Unione Sovietica nei paesi dell'Europa orientale: Polonia, Romania, Bulgaria, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Albania, che l'Armata Rossa aveva liberato dalla dominazione tedesca, mentre l'Italia e la Grecia, con tutte le altre nazioni occidentali, restano sotto l'influenza alleata. La carta d'Europa muta profondamente. Le maggiori annessioni vengono realizzate dall'Unione Sovietica, che alle terre occupate tra il 1939 e il 1940, Galizia, Estonia, Lettonia e Lituania, aggiunge la Polonia orientale. In compenso, il nuovo governo polacco riceve dalla Germania l'ampia fascia occidentale, che comprende importanti centri, come Stettino e Breslavia, nonché Danzica e il suo territorio, ad eccezione di Königsberg, passata all'Unione Sovietica con il nome di Kaliningrad. L'Italia cede l'Istria e parte dalla Venezia Giulia alla Jugoslavia. L'Austria e la Cecoslovacchia riottengono l'indipendenza. La Germania, privata di una buona parte dei territori sul confine orientale, viene divisa in due: la Repubblica Federale Tedesca, sotto il controllo occidentale, e la Repubblica Democratica Tedesca, sotto il controllo sovietico. A Yalta i tre grandi definiscono i dettagli per la creazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, erede della Società delle Nazioni, retta da un Consiglio di Sicurezza, composto da Cina, Francia, Inghilterra, Unione Sovietica e Stati Uniti, con il compito di tutelare la stabilità degli assetti esistenti e la pace. I tre capi di Stato decidono di convocare per il 25 aprile del 1945 una conferenza delle Nazioni Unite a San Francisco per discutere della proposta di un nuovo assetto mondiale. Dell'importanza della conferenza di Yalta e delle conseguenze che ne derivarono per gli equilibri geopolitici mondiali discutiamo questa sera con lo storico Bruno Bongiovanni, autore tra gli altri di un importante libro sulla Guerra Fredda pubblicato dalla Terza. Buonasera professore, bentornato. Grazie, buonasera a lei. Allora, a 70 anni di distanza, che giudizio si può dare di quel che venne deciso a Yalta? È stato forse un po' sopravvalutata l'importanza di Yalta. A Yalta si discusse soprattutto del futuro della Germania, che sarà poi divisa in due, ma sul piano istituzionale non prima del 49, mentre perdurava il blocco di Berlino, quando si arrivò alla Repubblica Federale Tedesca e alla Repubblica Democratica sovietizzata di fatto. Si parlò del destino della Polonia, della Jugoslavia, ma dobbiamo considerare che era ancora in atto la guerra, anche se si dava per scontato la sconfitta della Germania, la quale aveva 3 mesi di vita. La capitolazione sarà poi l'8 di maggio e l'Italia sarà libera il 25 aprile. Il Giappone invece resterà fino al 2 settembre di quell'anno. Yalta, ci trovava ancora in un momento di incertezza, di insicurezza, molti dicono che a Yalta cominciò la guerra fredda. In realtà a Yalta si stabilì che tutti i paesi dovevano avere una specie di istituzionalizzazione liberale, pluripartitica e cose di questo genere. E comunque sfere di influenza a quel punto. Sfere di influenza, sì. Però, come dire, i sovietici non osservarono quanto era accaduto e quanto si era deciso a Yalta, perché nei paesi da loro occupati, nelle loro sfere di influenza, non ci furono libere elezioni, ma elezioni proprio più di tipo monopartitico. Quindi si può dire, è un paradosso che dico adesso, ma che ormai è di cui molti sono consapevoli, che la guerra fredda non cominciò a Yalta, ma contro Yalta. Ecco, e a proposito di guerra fredda, lei è un esperto di questa lunga fase della storia mondiale, ma si può dire oggi che la guerra fredda sia effettivamente finita? La guerra fredda in quanto tale sì. Anzi forse finì addirittura mentre quando noi non ce l'aspetteremo oggi, forse finì a Saigon nel 75 e poi cominciò, come dire, proseguì solo un bipolarismo rivale USA-URSS, piuttosto come dire, continua una specie di difficoltà di accordo e chi deve dare delle valutazioni sulla politica di Putin fra l'est e l'ovest, mentre la guerra fredda la dobbiamo dividere in tante parti diverse, una guerra fredda iniziale, poi una guerra fredda in cui vi è la coesistenza pacifica, poi vi sono anche la guerra nel Vietnam e poi dopo la sconfitta americana nel Vietnam, l'unica sconfitta nella storia degli Stati Uniti d'America, non va dimenticato questo, cominciò un periodo, il 75 tra l'altro si può considerare il momento di apogeo dell'impero sovietico, quando Saigon, come dire, gli americani vengono sconfitti, e non è mai successo che un impero di quelle dimensioni tra il momento dell'apogeo e il momento del suo crollo abbia avuto solo 16 anni, dal 75 al 91, perché poi dopo ci furono varie cose, i sovietici non avendo, come dire, possibilità economiche fecero passi più lunghi della gamba in Africa, Angola, Mozambico, Etiopia e poi nell'Afghanistan, e poi, come dire, l'economia non funzionava più e questo, come dire, si arrivò al tracollo proprio quando si cercava di riformare. Il paradosso è anche questo, cioè quando arrivò Gorbaciov, quella, se tutti pensavano in una riforma, invece ci fu il tracollo, mentre, come dire, Yalta era ancora una fase interlocutoria per qualche misura. Sono passati 70 anni da quei giorni, ma è ancora una fase interlocutoria, professore. Da questo punto di vista fu subito dopo la fine della guerra, tra luglio e i primi d'agosto, la conferenza di Potsdam, dove le iniziative di Stalin divennero evidenti e cominciarono a far avere molti dubbi gli occidentali sulla sua come dire, capacità di avere sfere di sulla sua volontà, più che capacità, di avere delle sfere di influenza con regimi multipartitici e liberal-democratici. In effetti, professore, lei opportunamente segnalava come la guerra fredda, che dura molti anni, però presenti delle fasi storiche del tutto diverse tra di loro. Ricordiamo, ad esempio, una delle fasi più critiche ci fu all'inizio degli anni 60 con la crisi dei missili di Cuba. Quello fu un momento effettivamente in cui il mondo andò a un passo di nuovo rispetto alla possibile riapertura di una guerra mondiale. Certo, quel periodo, come dire, quei giorni che ancora adesso gli americani chiamano i 13 days, i 13 giorni, nell'autunno del 62, fu l'unica volta, e adesso possiamo dire fortunatamente, fu l'unica volta in cui le truppe, in questo caso la marina sovietica e la marina americana, si fronteggiarono. I sovietici dovevano portare le armi nucleari, missili a contestato nucleare a Cuba, e ovviamente all'America di Kennedy questa cosa non poteva piacere. E i sovietici a questo punto, dopo 13 giorni, girarono e, come dire, abbandonarono questa loro intenzione. Quello è stato forse il momento in cui, anche per la sua brevità e intensità, il mondo ha più avuto paura di un conflitto mondiale, e molto più che durante la guerra di Corea, che durante la guerra del Vietnam, dove certo ci fu una preoccupazione per l'aspetto sanguinario di queste due guerre, eccetera, ma però quei 13 giorni furono decisivi, il che conferma quello che nello stesso 62, ma prima di questo evento, avevo scritto Raymond Aron nel suo libro Paix, guerre entre nations, e che era: la pace è impossibile e quindi la guerra è improbabile. Professore, grazie, veramente molte grazie per questi suoi chiarimenti. Lo ricordiamo, il professor Bruno Bongiovanni, segnaliamo il suo fondamentale libro Storia della guerra fredda, pubblicato dalla Terza. Buonasera professore, grazie ancora. Buonasera a lei, grazie a lei.